Jolly Roger. Questo è Jolly Roger, torniamo dopo un lungo periodo che ci ha visto andare in onda il lunedì al posto del venerdì. Saluto tutte le amiche e tutti gli amici che ci ascoltano, saluto la mia crew che è finalmente al completo, compreso me medesimo. Ringrazio Elena che è qui accanto a me, che in questo periodo ha sostituito la mia assenza con la sua voce. Saluto Martina, la new entry Flaminia, e iniziamo questa puntata. Una puntata che dedichiamo anche noi di Jolly Roger, siamo contro la violenza sulle donne e soprattutto contro ogni forma di violenza. Quindi domani 25 novembre, appunto, visti i vari fatti di cronaca, si celebrerà quella che è la giornata mondiale della violenza contro le donne. Noi iniziamo questa puntata facendo quello che è stato un po' un segnale che hanno lanciato anche gli studenti con vari minuti di silenzio o un minuto di confusione caciara, chiamatelo come vi pare. Noi abbiamo deciso di iniziare la puntata con 10 minuti di silenzio e poi un pezzo musicale proprio contro la violenza delle donne e poi iniziamo questa nuova puntata. Quindi iniziamo con 10 minuti di silenzio. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Come ho detto prima, erroneamente erano 10 secondi di silenzio, no 10 minuti, perché insomma già qua il tempo è quello che è, insomma, era giusto la maniera come sempre di Jolly Roger per essere sensibile a questa che è una piaga, che sta diventando una piaga sociale. Torniamo sulla puntata, cambiamo tema, volevo ringraziare e salutare Gemini Network, in particolare Radio Grad, che tutti i mercoledì ci ritrasmette. Li ringraziamo perché sono dei grandi sostenitori e questo a noi può fare solo che piacere. Salutiamo le amiche del gas che purtroppo hanno cambiato giorno e quindi non saranno con noi più il venerdì, ma il mercoledì, col quale condividiamo un'altra nostra attività qui all'interno del Branca, che è il laboratorio di cucina. Poi più in là spoileremo quello che sarà un altro evento con la partecipazione sia di Jolly Roger come radio che fatto in Branca. Iniziamo la puntata quindi passando direttamente alle chiacchiere e alla musica. Passo il mic al mio amico nonché compagno di mille sventure Matteo, che è qui alla mia destra. Gli passo il mic e iniziamo a raccontare un po' di cose, visto che comunque abbiamo di quel che raccontare. Ciccio, con che vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare a bomba con le partite, visto che sono state una settimana che non ci sono state, le nostre scommesse questa settimana sono state pari a zero, quindi dai. Noi dobbiamo giocare a schedina fra le tante cose, ma questo rimane fra me e giusto, Ciccio? Sì. Allora, vai. Matteo, io mi parlo delle partite. E gioca a Napoli alle 18, poi Milan Fiorentina la sera. E poi Cari di Monza di Tondretta e Prodigione siamo lì di Quicci. Io e Inter la sera. Perfetto, Ciccio. Ricordiamo che c'è stata una lunga sosta del campionato, giusto? Quindi perché? Per quale motivo non si sono giocate le partite? Perché c'è stata la Natale. Perfetto, quindi ci siamo qualificati finalmente agli europei, quest'anno li giochiamo in persona e non come mondiali fatti alla play, quindi e di che altro vogliamo parlare prima di passare un pezzo musicale? C'è stata anche un'altra cosa abbastanza interessante che so che ti ha appassionato. Di tennis. Perfetto, allora raccontaci un po', io sono abbastanza ignorante, però devo dire che in quest'ultimo periodo, stando obbligatoriamente a casa, ho seguito anch'io il tennis, quindi posso confermare che mi ha appassionato anche a me in quest'ultimo periodo, soprattutto Sinner. Però raccontaci tu qualcosa. Io ti ho vinto una partita del Teppia, del tennis. Mi è molto piaciuto perché domani alle domani alle mezzogiorno gioca l'Italia contro la Serbia, un torneo importante. E dove, vabbè, non si gioca in Italia come la settimana scorsa si giocava a Torino, giusto Ciccio? Sì. Perfetto. E secondo te come andrà a finire? A me mi piace l'Italia. Perfetto, e allora, visto questa piacevole chiacchierata sul tennis, che non è un argomento di cui abbiamo mai parlato, perché obiettivamente nessuno di noi pratica, compreso padel o tutte le cose che hanno a che fare con racchette. Andiamo con il primo pezzo che porta il nostro amico Matteo, poi torniamo sempre qui in diretta. Paura di non riconoscerti mai più, non credo più alle favole. So che ho un posto, ma non qui, tra le tue grida in loop, corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come cenere. Ho visto un paio di inferni alla volta, so che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa, mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Vuoi cancellare il mio nome, farmi sparire nel fumo, come un pugnale nel cuore, come se fossi nessuno. Via come cenere. Che andassi via, lontana da me, ma sai, la terapia. Rinasceremo insieme dalla cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, bella che mi sembri bene. Più caldo del sole, io invece freddo mercurio. Lasciamo quelle parole dimenticate nel buio. Che come cenere, cenere. E ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Finalmente si ritorna in diretta il venerdì. Intanto, come sempre, calorosissima il clima qui allo studio del Branca. Condividiamo anche lo spazio questo venerdì con i ragazzi dei licei che sono venuti per organizzarsi, visto che appunto si parla, abbiamo iniziato la puntata raccontando un po' sulla violenza delle donne. Domani ci saranno diverse manifestazioni in tutta Italia. Appunto, i ragazzi dei licei del terzo municipio si ritrovano qui a Roma per organizzarsi domani. Quindi diciamo che oggi il Branca è full. Abbiamo parlato di calcio, di pronostici, abbiamo raccontato un po' di tennis. E Ciccio, ci manca il meteo del weekend. Raccontaci un po' come sarà questo tempo, questo fine settimana. Allora, domani la notte Domani che giorno è prima cosa? è sabato. Perfetto. Io domani è un tempo bello perché c'è il sole. Allora, 13 gradi, Piero. Perfetto, invece domenica? Domenica buono, È buono, ma arriverà il... A sole! parte il sole, perché ci siamo noi che siamo belli come il sole, arriverà il freddo. Freddo! Quindi bisogna iniziarsi a coprire. Pare che stia arrivando finalmente l'inverno. La gente è contenta che Forza arrivi Roma! l'inverno. È domenica e, come ricorda qualcuno, giocheranno, ci saranno anche le partite. E niente, Ciccio, quindi... E quindi salumo e saluto. Un saluto a chi? Saluta, e poi a chi passiamo anche il microfono. Io saluto la Mirra e i compagni. Perfetto. E poi altre persone da salutare, troppe ce n'hai, però stringiamo i tempi e quindi andiamo con un'altra canzone? Perfetto, e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Donde estoy se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, no, no, no. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Abbiamo parlato appunto con il nostro amico Matteo e ora passiamo al lato femminile della crew, Alice. Allora, Ali, a parte che è un piacere rivederti, Grazie. da tanto che non ci vediamo. Grazie mille, Pietro. E allora, raccontaci un po' tu, Anche cosa... tu, bentornato. Grazie. Parliamo, vai tu, dimmi tu quello che di cui Allora, volevi parlare oggi, dai. oggi vi parlerò, anzi, vi vorrei parlare. Perfetto, addirittura i verbi giusti, ragazzi, che sta solo qui a Jolly Roger, Di una crema che è molto importante, ha di una crema corpo idratante, idratante, molto, è molto idratante. insomma, è idratante. Sì, molto. Perfetto. con olio con burro di karité che dona un effetto seta e con olio di mandorle dolci. Quindi nel senso che questo cioè dà un effetto buono, però però fa bene alla pelle, idrata la pelle, giusto? Sì, però idrata col burro di karité. Per karité. Però l'olio di mandorle, che questo olio di mandorle io conosco il latte di mandorle, non c'entra niente, però penso che l'effetto sia quello, l'effetto che di freschezza, quindi ti rinfreschi, quindi darà anche un senso di freschezza, giusto? Per logica, poi io non uso nessuna, come vedi, con tanta bellezza, non ha bisogno di cremette. Questo olio di mandorle sta in una noce. Perfetto. E quindi questa crema dove la possiamo comprare? Cioè, tu dove sei venuta a conoscenza di questa crema? L'ho conosciuta da... cioè, praticamente l'ho presa... questa crema è dei provenziali. Ah, ok, a posto. Dei provenziali, quindi diciamo che tu la consigli soprattutto a chi? Oltre a tutte le donne, ovviamente. La consiglio a tutte le donne perché sono... è buona questa crema. È molto buona perché all'olio di mandorle soprattutto molto molto buono l'olio. Perfetto, io guarda, ti racconto un aneddoto, io uso poche cose, ad esempio c'è un bagno schiuma che non mi ricordo, mi sembra proprio sia al karité, che la gatta, la mia gatta è tanto attratta da questo odore che io dopo che mi sono lavato lei mi viene e mi lecca tutto, proprio perché ha un buon odore, lascia la pelle con un buon profumo, la idrata e tutto quanto. Detto questo, tu quindi a chi la consigli? La consiglio più alle femmine perché questa crema di donne. Perfetto. Donne. Quindi che dici? Passiamo un pezzo musicale e poi ritorniamo e parliamo di qualcos'altro? Sì. Perfetto. Fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te. In montagna, al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate. Dai, adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è, dimmi dove, quando. Dimmi dove, quando. Da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida. Non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove, quando. Da stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole. Stasera non arrivo in ritardo e... Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, potete riascoltarci tramite podcast che uscirà penso domani sul nostro canale di archive.it/pirateradio.it. Dopo, siccome mi sono imparato a dire tutto questo qua, dirò anche, anzi diranno, i ragazzi vi diranno i nostri contatti social. Detto questo, ripasso il mic alla nostra amica Alice, che ci ha dato un po' di consigli su creme, cremette e bellezza in generale, e torniamo con Leggo Notizia Attac, quindi è il momento della nostra rubrica sulla mobilità di Roma. Allora, questo sciopero è un po' molto importante. Quando ci sarà lo sciopero? Il 27 novembre. Perfetto, dici un po', leggici allora, quello che... raccontaci come si svolgerà. L'intera rete ADAC e l'intera rete Roma CPL, che vuol dire... mi sembra il numero del coso. Trasporti extraurbani, Roma, diciamo. E nel territorio di Roma capitale e nei comuni della città metropolitana. E che orari avrà questo sciopero? Quindi abbiamo detto che ci sarà un sciopero lunedì 27, ma da che ora? Servizi sulla rete ATAC. Cioè, allora diciamo questo qua. Ah, che ora? Abbiamo detto dalle 8:30, inizierà alle 8:30 fino alle 17, alle ore 19:59. Circa, e praticamente va bene, quindi lunedì abbiamo questo sciopero da segnalare, sicuramente ci saranno un po' di disagi, ma anche questo è lo sciopero. Andiamo con un altro pezzo che ha portato la nostra amica Alice, che lo presentiamo, la sua cantante preferita, diciamo che ormai tutto Laura. Il pubblico, esatto, Laura, non c'è bisogno di dire il cognome perché non ci riesco. Perfetto, meglio di così che voi dica fa. E abbiamo detto che questo è il pezzo che porta Alice, perché Alice è una grande estimatrice soprattutto delle cantanti donne, quindi diciamo lei è una che ascolta tanto tipo Elisa, Laura... È tutto ha detto Laura Pausini, mo te sei bloccata, dai, famo prima a farla ascoltare, che dici? Sì, è meglio. Cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? A non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare. E noi così distanti a sopportarci con educazione. La colpa non esiste, ma ognuno prenda la sua direzione. Perdonami per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Avevo un indirizzo nuovo e un posto per scappare. E non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avrei. Che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente e se mi fido della forza di un ricordo, casomai. Prenditi l'ombrello che si è il riparo sotto la tempesta. Se quello che ti devo è avere il cuore dalla parte giusta. Per questi giorni non li ho saputi raccontare. Ho un treno verso l'aeroporto, in volo tra due ore. che mi manchi sempre. Le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente, perché mi fido della forza di un ricordo. Quello che è stato rimarrà importante, come la piccola speranza che ci serve, che ti dai. Perdonami per questi giorni, non ho saputo come fare. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questa era Laura Pausini, un pezzo che ha scelto la nostra amica Alice. Finora abbiamo avuto modo di raccontare un po' con il nostro amico Matteo, e ora ovviamente, cioè, visto che abbiamo detto che la curia al completo, mi sembra doveroso presentare alla mia sinistra il nostro amico Lucone. Anzi, passo il mic a Federico, che sta con Lucone. Buonasera a tutti, un saluto Luca. Buonasera a tutti. Oh, allora, Luca, ma raccontaci, questa è una settimana speciale. Chi è arrivato a casa tua questa settimana? Nonna Rita. Nonna Rita, la vogliamo salutare, nonna Rita? Sì. E fai un saluto. Ciao Rita. Oh, nonna Rita è venuta, ma lei dove vive normalmente? Calabria. In Calabria. E tu ci sai dire qualcosa nel dialetto calabrese? Attia! Attia! E dici un po', ma in Calabria cos'è che mangiano che gli piace tanto? L'anduia! L'anduia, buona! Perché tu conosci tutti i dialetti, ma diciamo la verità, tu di dove sei? A Roma! Ah, sei di Roma, perché prima sul pulmino ce l'ha detto, hanno capito? Come dal Caponzio! Sono di Roma, no de... Ciò de Roma, no del Lazio. Oh, e ci ho detto... Non era proprio così, diciamo che la versione originale, non so... Ridilla? So de Roma, no de... Io so de Roma, non so del Lazio. va bene così. Va bene, allora dai, un saluto a tutti quanti ancora, in modo particolare a nonna... Rita, oh, a zia. Un saluto a nonna Rita. Perfetto, un saluto a tutte le nonne. Andiamo col pezzo che ha portato, che ha scelto anzi il nostro amico Lucone, che stasera starà con nonna Rita e ha detto che possiamo dire che te mangi stasera? Dillo, per favore dillo. Anduia! E poi oltre all'anduia ci hai detto una specialità. Al sugo! Le polpette al sugo, ragazzi, mica pizze e fighi. E andiamo col pezzo che porta il nostro amico Lucone, Antonello Venditti. Domenica, passa tanto lo sai che non ti tremola. E poi domani che ti frega. Ciao, ciao, buona domenica. Davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Guardo da imbecille, poi apre la porta la domenica. Ciao, ciao domenica, passate a scrivere da sola 20 minuti su una pagina. E in testa voglia di morire, ma non morire di domenica, in questo giorno da bucare, tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica. E ritorniamo in... Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questo era il modo per Lucone di augurare a tutti un buon weekend. Di solito, appunto, visto che in quest'ultimo periodo si andava in onda il lunedì, era un buon inizio settimana, quindi torniamo alle vecchie buone abitudini del venerdì. Abbiamo sentito poco fa Lucone, alla mia destra ci sta l'altro Luca, detto anche Luchino, quindi passo il mic a lui che sicuramente, oltre alle sue consuete rubriche, qualcosina da raccontarci anche lui ne ha. Ci sei? Sì. Buonasera a tutti, io sono Luca e volevo raccontarvi dei cani e gatti in generale. I gatti non si riconoscono allo specchio perché... diciamo che litigano, perché se tu vedi un gatto allo specchio e sa... Aspetta, raccontiamola bene, Ciccio. Ciccio 2, perché Ciccio 1 c'ha l'esclusiva. Allora, siamo partiti da un articolo di giornale, giusto? Sì. In cui si parla che gli animali, sul discorso, se gli animali si specchiano a uno specchio, si riconoscono o non si riconoscono. Quindi racconta la tua esperienza, visto che comunque tu hai dei cani, quello che è, insomma, racconta secondo te cosa succede. Allora, io ho dei, anzi ben 4 cani, ecco, loro fanno un po' di casino, ecco, lì. Ma si specchiano ogni tanto, c'hai uno specchio dove passano e si guardano, restano bloccati, che fanno? Loro non si specchiano mai, e questo è vero, non si specchiano mai, iniziano a litigare, abbagliano verso mezzanotte, ogni volta che vedono un cane iniziano a abbagliare contro. Ormai i cani miei sono un gran casino e ogni volta, adesso, i miei due cani, Romolo e Goliath, e pure Fonzi... Erano due, ma sono diventati tre. No, che iniziano a dare fastidio a Penny ogni volta che sento mia madre, Penny, Goliath, basta! Vabbè, detto questo, allora, abbiamo detto, questo articolo racconta appunto, io per esempio per esperienza ho la mia chihuahua toy incrociata con un pitbull che praticamente si specchia, io ho uno specchio quando nel mio palazzo, all'androne del palazzo c'è uno specchio, quando ritorniamo lei si specchia e rimane un po' sbalordita, poi scodinzola e si rende conto che è lei. E quindi lei, diciamo, secondo me si riconosce, secondo te i cani quando, o i gatti quando si specchiano si riconoscono? I cani sì, mentre i gatti no. Perfetto, io ho anche una gatta che sinceramente non so se si riconosce o meno quando si specchia o se si specchia. Però diciamo che tendenzialmente non sono, gli animali non tendono come noi uomini a specchiarsi, quindi questa è una somma verità. Esattamente. Diciamo che loro vivono di riflesso, cioè si guardano i riflessi, magari quando vengono riflessi negli specchi o appunto nei vetri delle finestre. Vabbè, comunque, quindi secondo te, Luca, tu hai detto che i cani si riconoscono, i gatti non si conoscono. Secondo me ti posso dare anche ragione perché la dimostrazione è che appunto la mia si riconosce quando si specchia. Ok. Vogliamo andare con il tuo primo pezzo che hai portato Sì. questo weekend e poi torniamo con le due rubriche? Ah, Sì. andiamo. Andiamo con il nostro pezzo che si chiamano. Chi hai portato? Duran Duran The Wild Boys. Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, appunto si parlava di come i gatti, se i gatti specchiandosi si riconoscono e poi da qui fuori onda è partito un tema a noi caro, noi soprattutto romani, Luca chiedeva, che vuol dire far coatto, essere coatto? Quindi ora che ne abbiamo parlato fuori onda, spiega a tutti gli ascoltatori che non sono di Roma, ovviamente, a parole tue, non te fa venire paroloni fantascientifiche, cosa vuol dire a Roma essere coatto? Coatto, diciamo quando tu dici, oh, quanto sei bella, oh! Ecco. Ecco, quindi diciamo un atteggiamento che è Romano. romano, ma anche un po' sopra le righe, insomma, uno che è abituato a far caciara, uno che la butta un po' sull'ignoranza più che la classe, diciamo così, che è forse un po' più democratica come cosa. Sì. Quindi? Quindi, ecco, io penso che la parola... A parole mie, io dico che è democratico quando tu sei democratico. Coatto, ecco, tu te svaghi un po' troppo, ti vuoi un po' divertire, diventi un po' nervosetto, ecco. Vabbè, insomma, c'è un atteggiamento da bulletto, diciamo così. Va bene. Allora, parliamo invece adesso, abbiamo spiegato un po' agli ascoltatori non romani che cosa vuol dire essere coatto. E da un coatto a un supermercato, visto che i supermercati sono pieni di coatti, tu ci racconti, ci dai consigli per gli acquisti, giusto? Vai. Offerte Tigre, Fanta a 1,50 euro, Pringles gustivari a 2,30 euro, Snickers, pacco da 3 barrette a 3,49 euro. Perfetto, quindi abbiamo parlato un po' dell'essere coatto e passiamo con un altro pezzo di un gruppo romano che qualcuno ha considerato anche un po' coatto, ma che comunque in giro per il mondo sta conquistando sempre di più. E andiamo e poi ritorniamo con le consuete battute, perché ovviamente bisogna creare un po' di suspense. Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold in my hands pictures of you. Dream of the day you were eating for two. Just one touch.

E ricordo al venerdì prossimo di portare la giustifica per Francesco, che sta facendo un po' troppo assenza, ecco. Va bene, speriamo che ci ascolta, così la giustifica dopo la fa vedere lui qual è. Salute, passo il mic ad Alice. Ciao a tutti, sono contenta oggi di festeggiare il mio compleanno con la radio. Ah, giusto, giusto. Noi siamo persone educate, gli auguri te li facciamo domani, però li facciamo in diretta qua. Auguri Alice, domani è il suo compleanno. Grazie. Quindi buon compleanno ancora. Il nostro amico Lucone. Ciao. Ciao Lucone, ciao a tutti e a settimana prossima. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Sera, afro italiana 2G.